24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Comunque c'è Putin in Italia. Ieri sera era a cena a casa di Berlusconi. Vista la situazione, è stata una serata diversa dalle altre. Hanno fatto le prove per vedere se Silvio riusciva a entrare nella valigia. Alla fine della cena Putin si è sentito toccare le caviglie e ha detto: ma non finiamo prima il dolce? No, no, è solo Dudu. Vabbè, Maurizio Crozza, adesso è il momento. Di Berlusconi, il giorno di Berlusconi, cari italiani. Qui sono le 6:33 minuti, immagino anche dove siete voi siano le 6:33 minuti. Ancora 14 sveglie a quest'ora ed è Natale. Dai, schema Allegri inserito. Forza. Milan, ci hai rotto i coglioni con questa storia che delle ore di sonno, 5 ore, 3 ore, 4 ore. Tutte le settimane sempre a sta rottura di coglioni. Ma guarda, io sono 30 anni e mi alzo alle 4 e mezza. Ma mica da rompere i coglioni a gente come voi, Vabbè, ho capito, basta. Sto schiscio. Paola Saluzzi, sto schiscio. No, sto schiscio. Innanzitutto stai funambolo il lunedì e su quello, su vabbè, sette gol non ti perdiamo mai. Certo. Poi sei anche uno che dubita che la gente si svegli al mattino. Stamattina su Twitter ce la sarà ricordato. Uè, giovanotto. Ma no, è colpa mia. È colpa mia. Ogni mercoledì. Dovete sapere io. Buongiorno a tutti. La convoco via Twitter, Paola Saluzzi. Ma ieri mi sono perso la risposta e allora oggi ironizzavo. Dice, ma si sarà ricordata, Paola la Saluzzi, che oggi è mercoledì e... mi sono dimenticata ieri di rispondere, ma era una giornatina così attiva, così precedente il B-Day, che eravamo tutti agitati. B-Day, mamma mia. Saluto Luca Dini, il momento è storico, il giorno è storico, caro Luca, direttore di Vanity Fair, eccoci. Super direttore. Beh, Che dire, il giorno è storico, di quelli da ricordare. Il Milan ha vinto in trasferta. Il Milan ha vinto, è storico proprio, caro direttore. Questo che... Beh, come sai, sono grande Balotelli, sono di un'altra parrocchia proprio. Vabbè, perché c'è, succede qualcos'altro, non lo so, oggi. No, nel senso che insomma, Milan, vabbè, insomma, va bene. Potete venire una volta più. Ma sentili di prima mattina questi due. Ma di che vuoi parlare, Paola? Non ho capito, succede qualcos'altro? Vuoi parlare di qualcos'altro? No, comunque sul Milan grande Balotelli e devo dire, ieri hanno provato a buttarlo per terra, ma sono caduti loro, Che analisi, neanche Candido Cannavò faceva degli editoriali così sulle partite di calcio. Hanno provato a buttarlo a terra, ma non ci sono riusciti. Questo è fantastico. Gianni Mura. Allora, dai, oggi è il giorno. Oh, intanto devo dire che quelli di Libero mi hanno svelato questo segreto. Nicole Minetti è stata... non abbiamo aperto il Parlamento, appunto, apriamo il Parlamento subito, perché hanno trovato Nicole Minetti. Il caffè volentieri a tutti quanti. Eccola. Senza qua. Spengerò la radio se continuerai a farmi invitare a prendere il caffè da quella madre badessa della Minetti, ma non ti vergogni. L'ennesima tascia. Ce l'hanno messo proprio nel yuk, un'altra tassa che va nel yuk. Bene, proprio, sono contento. Ciao Alessandro. Ciao, anche a te. Allora, qua Nicole Minetti l'hanno trovata, caro Luca Dini. Libero dice che vive tra Miami, Ibiza, New York, Maldive. Però, insomma, ti interessa? Come molti di noi, devo dire. Sì, è proprio l'italiana media che vive così. Paola Saluzzi, tu vorresti fare una vita. Ma la domanda è, ma si era persa? No, non lo so. E beh, si era persa, non si sa più niente. Ma l'ho trovata, scusa. Nel senso, non si sa più niente. Quindi un'intera pagina me la leggerò con molto gusto. C'è anche una foto praticamente diciamo, da testa a piedi, integrale. Insomma, bene, va bene. Allora, dobbiamo parlare di Berlusconi? E parliamo di Berlusconi. Intanto siete pronti al battage mediatico stasera, porta a porta? Ieri tutti i canali Mediaset, poi non lo so, poi andata da Paola Saluzzi, quando? Paola ti ha già fatto Non lo so, ma noi oggi siamo di speciale tutto il giorno perché è un giorno storico, è un giorno da seguire, è un giorno per capire anche che cosa succederà, insomma, tecnicamente che cosa succederà. Sì. E poi arriverà il 28, oggi è il 27, domani è il 28, insomma, ecco, appunto. Arriverà il giorno dopo, però è un giorno da analizzare con cura. Ecco appunto. Luca... politicamente corretta? No, infatti, Luca Dini, poi arriverà, c'è cioè il 27, poi arriverà il 28, eppure no, vabbè, adesso ironizzando, ironia a parte, è un giorno certamente storico, nel senso che Berlusconi dovrebbe lasciare definitivamente il Parlamento. E poi, Luca, che succede secondo te? Secondo me stiamo, cioè, non possiamo caricare troppo di aspettative questa giornata, nel senso, io vorrei che fosse già domani, come dire, preferirei saltarla la giornata. Preferiresti saltarla, sì, ma non è che da domani, come dire, lo stesso Berlusconi ha detto è solo l'inizio, non è che da domani sia finito appunto. Tutto. Poi è solo l'inizio, ne parliamo già da 6 mesi praticamente. Quindi, sì, anche un po' di più. Spaventa proprio questo, diciamo. Spaventa questo. E d'altronde però è la giornata, non so, cosa dice Berlusconi? Vabbè, va in TV, è solo l'inizio, è uscito dalla maggioranza, cioè di fatto, politicamente, esatto, questo è il dato di fatto. Adesso al Senato i numeri sono risicati, cara Saluzzi, cioè il rischio a questo punto è che... Quella è la pagina, ovviamente, oltre alla questione strettamente personale, umana, tutta da analizzare, e il numero di chi ora sa di essere l'opposizione, e si sapeva insomma probabilmente fin dall'inizio, l'analisi che si deve fare, tutta analisi, l'analisi che si deve fare dei rapporti, insomma, fra chi ieri era tutto PDL e oggi si ritrova su due sponde separate e distinte, e soprattutto la durata di vita di un governo che deve risolvere i problemi del paese, deve, come qualsiasi governo, e quindi saremo lì a capire come questi problemi tra IUC e IUC si risolveranno. Sì, poi anche questo prendere costantemente in giro le sigle, insomma, quella in qualche modo si deve chiamare. Non è che la possono chiamare Paperino, insomma, si deve chiamare. Beh, infatti IUC è IUC il verso di Pippo, come abbiamo detto da ieri. Yuk, qua. Yuk, infatti, quindi non la potevano chiamare, a questo punto potevano chiamarla anche Paperino, perché IUC è il verso di Pippo. E vedo, per fortuna che siamo tutti attenti lettori di Topolino, e questo mi onora. E IUC è il verso di Pippo, però insomma anche mettere in croce, ma come l'hanno chiamata? È che la vuoi chiamare? Tassa? No, però giustamente, esatto, chiamiamola tassa. Però giustamente, caro direttore, qui la questione è se parlare, come fanno tutti i giornali, di Berlusconi, se parlare invece, è chiaro che interessa di più a tutti gli italiani la questione delle tasse da pagare, hanno approvato la legge di stabilità al Senato ieri sera, ora tocca alla Camera, però che bisogna fare? Non è un momento comunque a suo modo storico, una svolta politica per l'Italia dopo anche 20 anni, oppure no? Ma non so, a me sembra l'ennesima volta che un partito in realtà riesce a essere dentro e fuori, nel senso che a me pare questo, insomma, io penso veramente che questa sia una scissione a tempo determinato. Non ci credo, nel senso non ci che credo. No, ma per l'ennesima volta che insomma gli interessi, diciamo, non collettivi prevalgano su cui del paese. No, perché questa è una teoria, guarda che tu hai messo il dito su una teoria che è abbastanza diffusa, addirittura qualcuno dice che sia una scissione in qualche modo programmata, nel senso Berlusconi sta fuori dalla maggioranza, quindi fa il falco, quelli là, Alfano, fanno un po' più i moderati, ma alla fine alle elezioni andranno insieme, e quindi questo è un modo per prendere sia i voti dei falchi sia i voti dei moderati. Potrebbe essere questo, cioè, quindi prendere più voti di prima, quasi fosse tutto addirittura ma programmato, Luca, cioè addirittura un qualcosa di studiato a tavolino. Questo il tentativo è quello, secondo me. Il tentativo è quello. Potrebbe essere così, anche perché Berlusconi racconta Repubblica: sarò a Palazzo Chigi nel 2015, cara Paola Saluzzi. Questo è lo spirito, secondo alcuni. Io mi rifaccio alle parole di un, perché bisogna sempre vedere i nemici, definiamoli nemici, insomma, comunque coloro che si sono trovati contrapposti l'uno all'altro e alla fine hanno imparato a conoscere l'altro meglio di chiunque altro. Mi sfido a questo gioco di parole. Romano Prodi, quando tempo fa disse ma allora Berlusconi è finito, ha detto chi è che dice questa amenità? Berlusconi non finisce mai. Sentite, sicuramente quell'analisi che avete fatto prima è tutta vera, di conto politica, se andiamo a guardare la politica nel resto del mondo, sì, accordi contro accordi, e vedremo quello che succederà. L'importante è vedere anche il resto del paese che va davanti o che vada dove deve andare, magari con una legge elettorale nuova. Ma parliamone. No, anche no. No, Luca Dini, parliamo della legge elettorale. Dai, forza, su. Tu che sei non volevo proporre questo tema alle 6:30 del mattino. No, infatti. Su, quale vuoi? Il cangurum, dove è finito cangurum. il cangurum è comparso, c'era il modello australiano, ma come no? Cangurum, allora, invece di prendercela, certo, direttore, con ICI, IMU, IUC, IAC, prendiamocela con questi nomi della legge elettorale, che io voglio dire, ma nomi uno più brutto dell'altro di questi non ce ne il cangurum trovare. Sentite questa, il Antonio lasciali perdere. Sentite Antonio Razzi, sentite. Lei fino a un paio d'anni fa però non era berlusconiana, come ha fatto a diventare berlusconiano così in fretta? L'ho diventato perché ritengo che è una delle migliori persone al mondo che ho conosciuto. Vabbè, ma insomma, ma non è tanto le persone al mondo, ha detto l'ho diventato berlusconiano. Vabbè, ma Antonio Razzi ha vissuto all'estero, si dice sempre così. Allora sentite questa, chissà, forse Luca Dini questa la conosce, sentite. È il buon Nanni Svampa. Nella mia strada che è una Busanova chi era no, luminga vista porca d'una Eva, chi la Busanova e passo mulla giò. Tutti in casa. Vabbè, insomma, questa Luca Dini la conosce, Nanni Svampa, no? Che si lamentava la buca. Oh, ma c'è uno che, sapete che c'è uno che si è lamentato per una buca? La sapete questa? La sapete questa? Massimo D'Alema ha preso carta e penna, ha scritto al ministro Lupi perché c'è una buca in via dei Baullari tra piazza Navona e piazza Farnese, vicino alla sede della Fondazione Italiani Europei, la sua fondazione, e gli ha scritto questa cosa: all'estero avrebbero arrestato il responsabile di uno scempio simile, ma insomma questa buca è in pieno centro, mica a Tor Bella Monaca. Che vuol dire? Quelli di Tor Bella Monaca affondino tra le buche, Paola Saluzzi, quelli lì. Ma se vuole lo portiamo anche in zona Eur, via Cassina, al Pigneto, è tutto un groviera a Roma. Ma io dico, ma una dichiarazione del genere, proprio il classico, come dire, no, radical scicchismo, cioè mica siamo a Tor Bella Monaca, no? Qua c'è una buca. Ma no, ma il ragazzo si sarà sbagliato, Sì. Fatti da lei, no. Farà una immediata lettera correttiva. Mi dà l'idea, infatti, caro Luca D'Alema, di essere uno non radical chic, uno insomma un po' vicino al popolo. Tantissimo, grazie. Vabbè, che dobbiamo fare? La buca, lo statista D'Alema se la prende per la buca, va bene. Andiamo a sentire il traffico, dai. 24 mattino. Oh Milan, ho sentito che la Saluzzi si propone come presidente del Consiglio. Beh, quantomeno nessuno potrà dire che abbiamo una colonna inchiavabile. Oddio Berlusconi, che pena pietà che fa, proprio non si può più vedere. È proprio vero, c'aveva ragione Andreotti, il potere lo cura chi non ce l'ha. Vorrei parlare con Silvio Berlusconi. Io ho 83 anni, è la seconda volta che telefono. Venga da me a fare il volontariato, si troverà bene. Ha anche la fortuna che sono comunista, le farò mangiare dei bambini meravigliosi. Un nuovo film della saga Tasse Stellari, Darth Fener Saccomanni, è il vero padre di Luke Skywalker. Luke, senti la forza della stabilità e paga. Grande è il senso di impotenza mentre incombe la sentenza. Il terrore genera assenza. Non ragiona il condannato, teme d'essere arrestato, di finire in una cella a ballar la tarantella, senza rubi o laminetti, ma forsuti ragazzetti che danzare lo faranno all'orpalo bunga bunga finché libertà non giunga. Basta con vita giuriva, spaventosa prospettiva. Cavaliere, che emozioni, chiuso assieme a sei negroni. Vabbè, io non ho molto da aggiungere. È tornato lo stornellator cortese, oggi poco cortese, devo dire. Siamo con Luca Dini e con Paola Saluzzi. Forse presidente del consiglio, dico solo questo. Io ringrazio per l'entusiasmo il nostro ascoltatore e vado avanti. Va bene, andiamo avanti, diciamo così. Vabbè. Era un endorsement. Era uno, come dire, che vorrebbe votarti, ecco, se tu ti candidassi. Uno l'abbiamo trovato. Bene. Allora, caro Luca Dini, se cancello subito, se no ho detto visto che siamo in tema, stavo dicendo, ma l'ho cancellata, ma l'ho detta lo stesso. Che cos'è su io il numero di Vanity Fair che mette in copertina un bello bacione, caro Ligabue, cara Paola Saluzzi. Ti garba? Però, caspita, l'ho conosciuto ai Love Mia. Intervistati insieme, fotografia fatta per le mie amiche e mandato su Twitter di tutto. Oh, eccolo lì. Allora, però Luca, mi incuriosiva, che cos'è Tinder, subito mi stavo informando, avete fatto un servizio su questa app Tinder che molti italiani adesso diranno ma io la uso tutti i giorni, che cos'è? È un'app per trovare, diciamo, compagnia, ecco. Come funziona, voglio dire, perché no, funziona che se tu l'azioni sostanzialmente chi ce l'ha attivata ti viene segnalato se nelle vicinanze e sostanzialmente ti risparmia l'imbarazzo di essere respinto, nel senso che interessi oppure non lo saprai mai. Ecco. Ti informa se c'è qualcuno nei pressi, proprio nelle vicine, uno va al ristorante, mette su Tinder. Non solo, ti informa se quel qualcuno ha preso atto del fatto che tu esisti è interessato a prendere un caffè con te, diciamo. È interessato sì a approfondire la conversazione, ma insomma Tinder, Paola, mi ricorda quella meravigliosa scena, parte leggeremo Vanity come sempre con la massima attenzione, grazie direttore ogni settimana, mi ricorda quella bellissima scena di un film di Woody Allen dove lui si avvicina ballando ad una e le dice che cosa fai stasera, sparisci Scorpio, e lui si allontana ballando. È vero. È una cosa del genere. Poi non ho capito il collegamento, visto che restiamo in tema. No, infatti, ma ho cancellato la frase, ho detto visto che sono partito e quando ho detto visto ho capito di aver detto una cazzata e ho cercato di frenarmi. Ma ormai... Bene, leggeremo, di Tinder in Tinder leggeremo e troveremo. Ormai sono finito qui. Vi voglio salutare ricordandovi che ieri al Consiglio regionale del Piemonte c'era una scolaresca in visita, avete visto com'è finita, purtroppo in radio non si possono fare vedere le foto, si sono presi a botte, momenti di educazione civica al massimo livello, si sono azzuffati e si è distinto soprattutto il consigliere di forza di Fratelli d'Italia Botta, noto per aver detto secondo Repubblica ai giornalisti che hanno svelato le sue spese, topi di fogna. Ecco, questo avrebbe detto ai giornalisti il buon consigliere Botta. Si possono decidere i danni sono per il paese. Non lo so, non lo so. Forse la scolaresca agirà, non so, lezione di educazione civica. Sono andato in consiglio regionale del Piemonte, è finita a Zuffati. Va bene, vi devo ringraziare e salutare Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che trovate con Liga, il Liga in copertina. Paola Saluzzi alle 15 a Sky TG24 pomeriggio, specialone su Berlusconi. Noi funamboli del mercoledì, caro. Brava, Nina, brava. Noi funamboli. Abbiamo la prossima presidente del consiglio qua. Ma e non lo sappiamo. Detto, alla prossima. Grazie, grazie, grazie. Ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo qui alle 7:20 minuti. Dai, dai, che si contavano qui le sveglie che ci separano a Natale. Per me sono 14. Uno dice: ma come, non mancano 14 giorni a Natale? Ma lascia fare, ci sono i weekend, poi qualche lunedì starò a casa da qui ai prossimi lunedì. E quindi insomma 14 sveglie alle 5 e poi è Natale. A proposito, avete sentito, anche 24 mattino saremo al Forum Agenti, anche noi alla fiera. Volete venirci a vedere? È una trasmissione eccezionale, perché andiamo in onda sabato alle 14 dalla Fiera di Milano, dal Forum Agenti. Siamo in diretta e potete venire a conoscerci, potete stare lì nel pubblico. Come fare? Andate su radio24.it e lo scoprirete, ci sono tutti i dettagli. Allora, oggi parleremo di regioni. Ah, le regioni, quanti belli articoli che vi devo leggere dai giornali. Peccato non si possono far vedere le immagini in radio della zuffa ieri al Consiglio regionale del Piemonte, ma insomma ne parliamo alle 8:15. Avremo anche il presidente del Consiglio regionale piemontese e altri ospiti. Intanto andiamo a sfogliare i giornali. Mercoledì 27 novembre, i titoli: c'è chi, come il Sole 24 Ore, sceglie la legge di stabilità approvata ieri sera al Senato, passa ora alla Camera. La manovra su casa e lavoro, ecco chi paga e chi guadagna. Questo è il titolo di apertura del Sole. Mentre il Secolo XIX, prima casa, rischio stangata. Per il Manifesto, strategia della pensione. Questo è il titolo di prima pagina, perché le pensioni verranno molto toccate secondo le indiscrezioni dei giornali nella legge di stabilità. E poi la vicenda Berlusconi, che oggi dovrebbe arrivare all'epilogo almeno per l'uscita dal Senato. Nuova maggioranza senza Berlusconi, così apre il Corriere. Per Repubblica, Berlusconi rompe le larghe intese. La Stampa, addio alle larghe intese. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi è fuori, ieri dal governo, oggi dal Parlamento. Il Giornale invece titola tutta pagina Gli illusi. Il Messaggero, Berlusconi addio al governo. Libero, cacciano Berlusconi e tosano i pensionati. Mentre l'Unità, Berlusconi scatena la guerra. Questi alcuni titoli. Ma le regioni, noi avremo anche, torna con noi Roberto Perotti, docente alla Bocconi, che ha fatto anche uno studio sulla voce.info sulle spese delle regioni, studio che oggi viene preso dal Corriere della Sera e da Sergio Rizzo, per titolare a pagina 11 28.000 euro in più a Onorevole, così le regioni superano il Parlamento. Ecco quanto sono costati i contributi ai gruppi regionali, le cifre record del 2012. In testa sono Lazio e Lombardia. Finanziamenti con soldi pubblici anche ai gruppi composti da una sola persona. In tutta Italia sono 75 e continuano, no? I finanziamenti ai monogruppi. Finanziamenti a IOSA e in tutto un fiume di denaro per anni alimentato i politici regionali. Tanti soldi, scrive Rizzo, più di quanti se ne possano immaginare, tanti da costringere a rifare perfino i conti, correggendoli ovviamente al rialzo dal finanziamento pubblico ai partiti. Basta dire che nel 2012, l'anno dello scandalo di Batman & Co. nella regione Lazio, i contributi ai gruppi politici dei consigli regionali hanno toccato la cifra astronomica di 95 milioni e 655 mila euro, più del finanziamento pubblico ai partiti francesi e spagnoli, più dei rimborsi elettorali che la legge di un anno fa ha fissato in 91 milioni, ancor più dei denari versati nelle casse dei gruppi parlamentari di Camera e Senato. Questo oltre Naturalmente alle retribuzioni dei consiglieri costate 228.609.000 euro. Per non parlare dei vitalizi agli ex consiglieri, 172,5 milioni di euro. E insomma, da questi dati è partita la voce.info con Roberto Perotti a specificare i costi delle regioni. Ma noi ne parleremo alle 8.15, avremo Roberto Perotti. E che è successo ieri in Consiglio regionale del Piemonte? Si discuteva di questo. C'era una scolaresca in gita che per la lezione evidentemente di educazione civica è stata portata al Consiglio regionale e gli hanno detto: guardate ragazzine e ragazzini, oggi entriamo nel tempio della democrazia della regione Piemonte a vedere come si comportano i politici. È finita a pugni e rissa. Le foto sono ovunque. Rimborsopoli in Piemonte, rissa in consiglio regionale. Le foto sono di persone che si azzuffano, si tirano per i colletti, si spingono per le giacche, si sfilano le cravatte. Evviva il consiglio regionale del Piemonte! Tra l'altro, la vicenda riguarda il governatore, anche il governatore Cota, come raccontano Massimo Numa e Nicolò Zancan sulla Stampa, due pagine, pagina 16 e 17, racconta la Stampa: piccole spese politiche del governatore del Piemonte Cota, spremuta, Pol Mall azzurre, tre coperti da Celestina ai Parioli a Roma, sei coperti al duello lo stesso giorno ancora a Roma, 4 chili di pasticceria per 126 euro a Torino, cinar, grappa, coppa mista di gelato, due degustazioni di tartufi da Italy, 4 pacchi di Pall Mall azzurre, un libro antico 200 euro, un regalo di nozze da 380 euro, cravatte, argenteria, caricabatteria, deodorante, spazzolino, Marlboro da 20, una cornice, una valigia, un DVD, chipster, taralli, MMS, arachidi, 4 coperti al Legal Seafood di Boston, 110 euro alla Taverna Antico Agnello di Novara, 22 coperti da Celestina ai Parioli, 5 ricevute diverse nello stesso giorno e poi, il 20 aprile 2011, 9 pasti, 3 scontrini tra Roma, Torino e un bar dell'aeroporto, totale 25.410 euro non giustificabili. La storia è tutta qui. E insomma, e qua ci sono anche i verbali di fronte al procuratore capo di Torino Caselli, rilasciati dal governatore Cota. Mi viene chiesto se le ricevute in contestazione siano tutte mie. Io dichiaro che nella stragrande maggioranza erano mie. Davo gli scontrini alla segretaria, lei confrontava gli scontrini con la mia agenda e scartava le spese che non avevano a che fare con la mia attività politica. Quando dico che non tutti gli scontrini potrebbero essere miei, non dichiaro che ho presentato scontrini di altri, ma solo che nel costo indicato vi sono compresi i costi sostenuti da me a vantaggio di altri come collaboratori o personale della scorta. Insomma, è tutto qui, ma è finita in rissa. Il consigliere Botta di Fratelli d'Italia, che pare abbia detto, secondo Repubblica, i giornalisti sono topi di fogna, coloro che hanno svelato i miei compensi, e che scrive la Stampa, a lui hanno contestato 12.000 euro investiti, 2.000 euro in profumeria. E colui che ieri ha scatenato la rissa, ieri, quando ha parlato anche Mercedes Bresso, ex presidente della regione Piemonte, è intervenuto così: e pianta la radical chic di merda, statene a Parigi. Questo secondo il Fatto Quotidiano a pagina 9. E da lì la rissa, ma tutti i giornali ne parlano, spintoni e botte, l'aula regionale è ridotta a un ring. C'è anche Michele Serra, la maca su Repubblica: son volati ceffoni e spintoni in Piemonte, ma anche in Campidoglio ieri l'altro, zuffe istituzionali, uomini sull'orlo di una crisi di nervi che si afferrano per la cravatta. Ecco una possibile risposta a chi si domanda come mai, con una situazione economica e sociale drammatica, la gente non si scanna per le strade. La gente non si scanna perché in sua vece si scannano i consiglieri comunali e regionali e presto forse i deputati, i senatori. Il principio di rappresentanza una volta tanto ne esce confermato. Un'ipotesi di massima che metterebbe d'accordo una volta tanto quelli che odiano la politica e quelli che la ritengono indispensabile sarebbe incaricare dello scontro estremo e simbolico, tipo Orazzi e Curiazzi, gli eletti dal popolo, che si guadagnerebbero e come il pane, anche il companatico, immolandosi per le rispettive cause, incarnando il conflitto sociale, lo scontro ideale, l'odio politico. Ulteriore vantaggio è che i giovani, più vigorosi e prestanti, avrebbero certamente la meglio, garantendo ben più drasticamente di Renzi il ricambio della classe dirigente. Così Michele Serra su Repubblica. Eh sì, è finita a botte. A proposito di botte, io scherzavo due giorni fa quando su Twitter, sul mio profilo Alino Milano, ho scritto: oh, ma guardate che, vista la moviola, sembra che la gomitata a Marino sia un po' da simulazione, cioè un po' da cartellino giallo per eccesso di simulazione da parte del sindaco Marino. Oh, oggi il Corriere della Sera non scherzano, due titoli: la moviola inchioda Marino per il giornale. Era una gomitata involontaria. E anche il Corriere della Sera, visto alla moviola, ma come la moviola? La moviola, siamo alla moviola in consiglio comunale. Andiamo in pubblicità. 24 mattino. Sono le 7 e 35 minuti, eccoci pronti a continuare la lettura dei giornali, la notizia politica, eccola qui, la notizia del giorno. Sarà il lungo giorno che alle 19 porterà al voto sulla decadenza dal Senato di Silvio Berlusconi. La politica è tutta catalizzata da questa notizia, Berlusconi all'opposizione è solo l'inizio, titolo a pagina 16 del Sole 24 Ore, l'articolo di Barbara Fiammeri, oggi il voto sulla decadenza e anche ieri la decisione politica di passare all'opposizione. Dunque Forza Italia passa, la neonata Forza Italia o rinata, all'opposizione. A questo punto ballano un po' i numeri, nel senso che sarebbero solo 6 i numeri che garantiscono la maggioranza di governo al governo Letta al Senato. Berlusconi, state pronti, farà una carrellata di apparizioni in TV, questo ormai è certo dai giornali, ieri le TV Mediaset, oggi durante il voto della decadenza al Senato. Lui non sarà al Senato, ma sarà a Porta a Porta dalle 21, credo uno speciale in prima serata, e quindi assisterà alla sua probabile decadenza da senatore fuori dal Senato, ma in uno studio televisivo, quello di Porta a Porta. Non finisce qui. Tornerò a Palazzo Chigi, così promette ai suoi, è il titolo di Avvenire, per esempio a pagina 7, ma è il titolo di tutti i retroscena, anche quello di Francesco Bei in prima pagina di Repubblica, e poi continua a pagina 3, La notte più lunga del Cavaliere, giuro che tornerò a Palazzo Chigi. Questo ha ripetuto ai suoi anche in un momento di cupa tristezza, quando ieri al Senato ha detto: oggi sono qui tra voi, ma domani i commessi non mi lasceranno nemmeno entrare. Ieri sera ha confidato ai suoi: avevo a cena da me l'uomo più potente del mondo, Vladimir Putin, e tra poco servirò i vassoi alle mense. Putin mi ha detto: se vai in prigione, la prima settimana 1 milione di persone saranno in piazza a manifestare per te, la seconda settimana saranno 500.000, dalla terza non ci sarà più nessuno. Ecco, questo rende cupe le giornate di Silvio Berlusconi, alterna depressione a euforia, dice Repubblica, mentre non lo consolerà il calcolo che ha fatto Francesco Grignetti a pagina 5 della Stampa. Non lo consolerà certo, perché non ha bisogno di queste quisquiglie di denaro, ma Silvio Berlusconi, se decadrà dal Senato, avrà diritto, come tutti coloro che decadono e finiscono la carica, al TFR, messo da parte finora sono 180.000 euro per Silvio Berlusconi, più un vitalizio, quindi a vita, mensile da 8.000 euro al mese. So che per molti voi italiani sarebbe la svolta da qui alla fine della vostra vita, ma per Silvio Berlusconi 180.000 euro più 8.000 euro al mese probabilmente sono, come dire, come dare a voi 2 centesimi. E quindi, però, questo è il dato di fatto: avrà diritto a questo, racconta la Stampa. Per il resto ci sono le intese con Enrico Letta che va avanti, racconta Monica Guerzoni a pagina 3, intese meno larghe ma più forti, siamo sul Corriere della Sera, c'è stata una verifica lampo di Letta anche, pare, con il presidente del Quirinale, con il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per cercare di capire le nuove intese, dice Letta, sono meno larghe ma più coese e dunque potenzialmente siamo più forti di prima. Adesso il governo ha un alibi in meno e qualche responsabilità in più. Così Enrico Letta. E poi c'è il rischio paventato dell'arresto, raccontano tutti i giornali, qui i giornali si dividono, come Libero scrive la gara dei PM per chi sarà il primo ad arrestare Silvio, ed è Cristiana Lodi che ne parla, pagina 8 di Libero, i legali frenano, il carcere è impossibile, ma Berlusconi teme il blitz delle toghe un attimo dopo la decadenza. Le procure che si guardano con più attenzione sono quelle di Bari, dove c'è il processo sulle escort, Napoli, il processo sulla compravendita dei senatori, e Milano, il caso Ruby Ter. D'altronde, racconta Libero, anche ieri Berlusconi ha detto: nei miei confronti c'è un odio tale della magistratura che ha impiantato 57 processi contro di me, e dunque si teme questo. Anche Paolo Colonnello sulla Stampa, cronista di giudiziaria, scrive sul caso Ruby: spunta l'ombra di un altro giudizio immediato e Berlusconi teme così l'arresto una volta decaduto. Staremo a vedere. Intanto la nuova maggioranza, secondo il Fatto Quotidiano, ha già un costo che si è misurato nella legge di stabilità approvata ieri al Senato. Il costo è di 110 milioni di euro, e questo costo, secondo Marco Palombi, si calcola così: nella legge di stabilità sono spuntati 110 milioni di euro per la stabilizzazione dei lavori socialmente utili, dei lavoratori socialmente utili della Calabria. D'altronde, 5 senatori di quella regione sono una componente fondamentale del gruppo in Senato del nuovo centrodestra di Angelino Alfano, e dunque Enrico Letta, in qualche modo, per garantire l'unità politica, ha dovuto trovare questi 110 milioni in legge di stabilità. Ecco il titolo del Fatto Quotidiano: la nuova maggioranza costa a Letta 110 milioni di euro, visto che Alfano ha ottenuto i soldi per i suoi. A proposito di legge di stabilità, voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Eccoci Mauro, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Già sul Sole, anche se l'approvazione è arrivata ieri e al Senato non è ancora definitiva, ci sono tutte le novità della legge di stabilità che riguardano anche le pensioni. Ai noi. Le pensioni, perché ci sono, tu sei pensionato, no? Non mi pare, visto no, che tutte le mattine ci sentiamo, immagino che... A volte mi sento dalla stanchezza un pensionato, ma tiro avanti. Pensioni, perché sono interessate da due misure, come sai, l'indicizzazione, insomma, riadeguiamo un po' al costo della vita le pensioni, non solo fino a 1500 euro, ma saliamo un pochino, e poi c'è il contributo di solidarietà. Dai 90.000 euro lordi l'anno in su viene applicato un contributo, parte dal 6% ma arriva fino al 18%. Questa è la proposta appunto uscita dal Senato stanotte, quindi una misura doppia che riguarda i pensionati. E poi c'è il cuneo fiscale per i lavoratori, invece i lavoratori dipendenti, con un po' più di soldi nella fascia iniziale, insomma 15-18.000 euro. Diciamo che tutti i dettagli tutti comunque, tutti i dettagli sono sul Sole, è certo, sì. Quanti euro? Non sono tantissimi, l'abbiamo detto spesso, e i calcoli che presentiamo oggi insomma lo testimoniano. Ovviamente tutto quello che c'è sul Sole è una cosa in fieri, perché chiaramente dovrà esserci l'approvazione definitiva, però qualcosa già si può capire anche sulla pensione. Immagini Mauro che ci sarà una sorta di rivolta, alcuni giornali come Libero titola per esempio: tosati i senatori, i pensionati, e quindi insomma si va a colpire le pensioni. Ma guarda, quello che potrà cambiare sono diciamo alcune parti delle misure, però poiché questa finanziaria, legge di stabilità, nasce diciamo sotto la strettoia dei conti, e Saccomanni ha detto più volte i saldi devono essere questi, o veramente alla Camera si fa uno sforzo di fantasia inusitato, sì, o più o meno quello rimane che vediamo oggi rimane così, poi cambierà qualche percentuale, qualcosa sale, qualcosa diminuisce. Tra l'altro però Mauro, si parlava di tagliare le pensioni d'oro, per dirla così in maniera un po' tranchant, per finanziare il reddito minimo, come titola qualche giornale oggi, cioè finanziare questa proposta, tra l'altro che è una proposta del Movimento 5 Stelle. Ecco, anche questo sì, è quello che dovrebbe accadere col contributo di solidarietà. Vorrei precisare, questo reddito minimo è sperimentale, perché in campagna elettorale si era parlato di reddito minimo ma distribuito diciamo a una fascia abbastanza ampia, ohimè, della popolazione, e qui si tratta di un reddito minimo che viene sperimentato appunto nelle grandi aree metropolitane, la dotazione è abbastanza bassa, non so poi alla fine che formulazione sia uscita stanotte dal Senato, ma erano sui 100-120 milioni di euro, quindi rispetto a un bisogno che può essere di 5-7 miliardi se fosse calcolato in modo complessivo, quindi una misura ancora molto circoscritta. Poi non so, ti segnalo che però puoi giocare, se vuoi puoi scaricarti i programmi per la musica sul PC aziendale. La Cassazione ha detto che si è opposto al licenziamento di un dipendente che si era scaricato un programma per avere la musica dai siti internet. Hanno detto vabbè. Se però poi lavorava, pazienza, dai, lasciatelo fare, lasciategli ascoltare un po' di musica. Noi troviamo in norme, nella sezione di norme e tributi oggi. Vabbè, tutti che vanno a scaricare, va bene. Speriamo. Ecco, no, però attenzione, perché uno che faceva troppi giochini, troppe ore e passava con i giochini, invece la Cassazione ha detto che si poteva licenziare. Allora, insomma, diamoci, uniformiamoci, cara Cassazione, perché altrimenti c'è questo rischio. Oh, guarda, no, ma sembra sempre che lo faccia a porta. Ma stanno passando le immagini di Celtic Milan ieri, proprio in questo momento sulla 7. Perché cosa è successo? No, infatti tu questione di coppe non le capisci, ti posso capire. Infatti. Ero preso dalla legge di stabilità, sapevo che poi dovevamo sentirci, mi avresti fatto le domande, non avevo tempo per queste cose minori. D'altronde si sa, il giorno è davvero storico oggi, il Milan ha vinto. E quindi, caro Mauro, con questo ci sentiamo domani, diciamo, cristallizziamo tutto oggi, che del domani non v'è certezza, soprattutto per il Milan, e quindi va bene così. Grazie Mauro Meazza, allora il momento del traffico e poi le altre notizie sui giornali. Eccoci qua, sono le 7:47 minuti, l'ultima parte della rassegna stampa. Vi voglio raccontare quello che Michele Brambilla scrive in prima pagina della Stampa: da Fiorano al Serio in provincia di Bergamo, una storia che non è finita finora sui grandi quotidiani, ma una storia davvero incredibile, un tesoro in nero sparito in Val Seriana, il giallo del sindaco bancario a manchi per 30 milioni, per lo più fondi non dichiarati. È la vicenda che riguarda come protagonista Benvenuto Morandi, sindaco della Val Seriana e anche sindaco di Val Bondione e anche direttore di banca. C'è un'Italia che non compare nei report sulla crisi, scrive Michele Brambilla. È un'Italia dove i soldi vengono portati in banca dentro una borsa, una scatola di cartone, dietro rilascio di una ricevuta scritta a biro su un pezzo di carta, magari quella del formaggio. È un'Italia che rimane sommersa fino a quando non succede un imprevisto, e cioè che i soldi spariscano. A quel punto non resta, seppur dopo tanti imbarazzi, che fare denuncia. L'ultima l'ha presentata la numero 13, una vedova di un operaio che sostiene che dal deposito in banca del marito siano spariti 180.000 euro, ma in totale i soldi scomparsi ammonterebbero in un minuscolo mondo di provincia a 30 milioni di euro. Eccola qui, inizia così la storia del sindaco bancario che ha fatto sparire il tesoro in nero della Val Seriana, leggo il titolo di pagina 19 della Stampa. Una persona che tra l'altro dice la Stampa non lascia la poltrona di sindaco e promette querele per tutti. Tutto comincia quest'estate quando le chiacchiere sui depositi prosciugati arrivano ai vertici di Intesa San Paolo, che manda 5 ispettori a controllare l'operato del direttore di Fiorano, vale a dire Benvenuto Morandi, 53 anni, dal 2006 sindaco di Val Bondione per una lista civica di centrodestra. Gli ispettori si accorgono che qualcosa non quadra, avvertono la magistratura. Il 1 luglio il direttore viene sospeso, ormai è uno scandalo al sole, anche perché un grosso imprenditore di Gazzaniga, Gianfranco Gamba, ha fatto la prima denuncia a Clusone. Si è accorto che dal suo conto è partito, senza che nessuno lo autorizzasse, un bonifico da 400.000 euro. A quel punto la gente della valle rompe gli indugi, una mamma e un figlio di 40 anni presentano la seconda denuncia. Si parla di un saldo di 150 euro a fronte di versamenti per 600.000. Benvenuto Morandi viene indagato, insomma, così le tappe di questa vicenda, che ovviamente è tutta da chiarire, ma nella Val Seriana, in provincia di Bergamo, in Lombardia, questa storia che viene raccontata dalla Stampa del sindaco bancario che ha fatto sparire, avrebbe fatto sparire, ma il titolo è che ha fatto sparire il tesoro in nero della Val Seriana. Vabbè, c'è anche spazio per D'Alema. Cosa ha combinato D'Alema? Si è lamentato per una buca. Si è lamentato per una buca a Roma, e fin qui ci può stare, ma Libero lo prende in giro. Francesco Specchia titola così: l'eterna spocchia di D'Alema finisce nella buca. Ha lamentato D'Alema la presenza di una buca in via dei Baullari, tra piazza Navone e piazza Farnese, in pieno centro a Roma, vicino, ma casualmente, vicino c'è la fondazione, la sua fondazione Italiani Europei. E Massimo D'Alema ha scritto al ministro Lupi dicendo: l'hanno scavata la buca e nessuno l'ha rinchiusa. All'estero avrebbero arrestato il responsabile di uno scempio simile. E poi sentite cosa ha detto, è in pieno centro, mica a Tor Bella Monaca. Che è come dire, quelli di Tor Bella Monaca stiano pure in mezzo alle buche, che invece in centro, insomma in centro, casualmente poi vicino alla sede della fondazione, non si può vedere. Allora, lo statista D'Alema perso in una buca, l'ex premier dice a Lupi: ripara l'asfalto vicino alla mia fondazione, è in centro, mica a Tor Bella Monaca. Evviva questo... Massimo D'Alema. Oh, incredibilmente mi è arrivata, è tornata la Gazzetta, e qua paghiamo l'abbonamento sempre, ma è arrivata, ma stavolta sono talmente abituato a non guardarla che me la sono lasciata di là, non lo so, di là, boh. Comunque titola sulla vittoria del Milan, ecco, è una cosa talmente rara che c'è. Comunque, che dire anche invece dello scontro politico via Twitter tra Renzi e Cuperlo? Sapete che Renzi ha detto: o si fa come dice il PD oppure finish, e Cuperlo ha risposto: ah, finish, e allora si fa come dico io, se no dash. E vabbè, ma insomma siamo a questi livelli. Eccolo qua, la buona Miriam Lucchetti mi ha portato in corsa saltellando come uno stambecco la Gazzetta dello Sport, ed eccola qui: ok Milan, si fa così, evviva. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, mentre il Napoli ha perso in Champions League. Ma siamo alla chiusura e siamo al momento del premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali. È rispuntata, l'hanno trovata, l'hanno scoperta, eccola lì dove è finita Nicole Minetti. Ah, io lo so che in tutte le vostre colazioni e mentre andavate al lavoro è la prima cosa di cui parlavate con i vostri colleghi. Ma dov'è finita Nicole Minetti? Eccolo, Libero ce lo dice, e ce lo dice in un'intera pagina. La Minetti ha trovato lavoro. Lavoro. A zonzo tra Miami e Ibiza. Ma che lavoro è? Non lo so. Comunque, 3 mesi su una spiaggia, 3 su un'altra, poi New York, Maldive, e Massimo De Angelis ci racconta l'anno tipo di Nicole Minetti. Ora è a Miami, la mattina è dedicata alla sauna, battigia, un po' di palestra, durante il tramonto lungo vie per lo shopping, alle 12 imperdibile appuntamento nel locale Modaiolo sulla Washington Road, con una cena con le compagne, che sono Lisandra Silva, nota come Madre Natura, ciao Darwin, e poi la prorompente Debbie Castaneda, Miss Colombia 66, e poi l'attrice americana Tara Reid, famosa per aver recitato in American Pie e Le Scorribande Notturne. 3 mesi a Miami, poi 3 mesi a Ibiza, poi 3 mesi alle Maldive. Viva, che bel lavoro, ma chi se ne frega. Soprattutto ci fa un po' arrabbiare questa cosa letta sul Libero che riguarda Nicole Minetti. Duro lavoro, durissimo il lavoro trovato da Nicole Minetti. Ma chi paga poi questo lavoro? Boh, chi lo sa. Andiamo al giornale radio. 24 mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 19 minuti, cari ascoltatori. Allora, tenete a mente questa cifra: 1 miliardo di euro l'anno, 1 miliardo, più o meno. È tanto, è poco? Beh, dipende sempre da cosa lo rapportate. Se lo rapportiamo alla spesa pubblica, che è di circa 800 miliardi, magari sono bruscolini o comunque non è tanta roba, però è 1 miliardo. 1 miliardo, che cos'è? È il costo complessivo dei 20 consigli regionali italiani, cioè quello che ci costano gli stipendi dei consiglieri, le pensioni degli ex consiglieri, le spese per il personale e poi i finanziamenti ai gruppi consigliari. Ecco, soprattutto però questa voce dei finanziamenti ai gruppi consigliari è quelli che hanno dato vita alle inchieste più disparate nella procura, delle procure d'Italia. Tra l'altro la cifra di 1 miliardo l'ha calcolata il professor Roberto Perotti sulla voce.info. professor Perotti, che torna con noi, lo voglio salutare, buongiorno e ben ritrovato professore. Buongiorno. Eccoci qua, insegna economia politica alla Bocconi, la voce.info, anche editorialista del Sole 24 Ore. Poi insomma, oltre alle inchieste, Le immagini che si sono viste ieri alla Regione Piemonte, dove c'è un'inchiesta, sono indagati molti consiglieri, è indagato anche il presidente della Regione Cota per le spese che oggi la stampa mette nero su bianco e dice: eccole qui le spese per cui 25.000 euro sono contestate a Cota: spremuta, sigarette, 3 coperti, 6 coperti in un altro ristorante, pasticceria per 126 euro, cinar, grappa, coppa mista di gelato, 2 degustazioni di tartufi, libro antico, regalo da nozze, cravatte, argenteria, caricabatteria, deodorante, spazzolino, ancora sigarette, DVD, chipster, taralli, arachidi, 22 coperti con 5 ricevute nello stesso giorno, insomma totale di 25.410 euro. Ieri c'è stata una vera e propria zuffa in consiglio regionale. Ne saluto il presidente Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e a tutti. Vogliamo partire da qui prima di dare le cifre con Perotti, insomma quello che si è visto, che cos'è? No, ieri mattina il presidente della regione, il presidente Cota, è venuto in aula, eravamo convocati in seduta straordinaria per parlare di IRPEF. Sì. Poi, secondo me, anche in modo molto opportuno, invece ha fatto una comunicazione all'aula sulle questioni, insomma, che stanno attanagliando anche il Piemonte insieme alle altre 16 regioni che sono coinvolte in Italia. E lì è stato chiesto un dibattito, poi abbiamo limitato, diciamo, un dibattito per chiarimenti, 5 minuti consiglieri, c'è stato un dibattito sul finire dello stesso. Dibattito, sì. C'è stato. Però un momento, se posso finire, cerco di essere breve. Alla fine del dibattito poi c'è stata una serie di interventi, fra cui quello del consigliere Botta, il quale è stato un po', come dire, tagliente verso l'ex presidente della regione Bresso. C'è stato un po', come dire, di alterchi, come avviene nelle aule parlamentari. Tagliente, sa che scusi presidente, il Fatto Quotidiano dice che ha preso la voce, la parola a Mercedes Bresso, e il Fatto Quotidiano dice: taci radical chic di merda e statene a Parigi. Questa sarebbe stata la replica. No, non è così. Radical chic è vero che ha detto, se lei si riferiva agli elettori della collina torinese o di Parigi, vede che tante volte e comunque poi non c'è stata nessuna zuffa, questo tendo a precisarlo. Anche le fotografie che avete visto, per esempio quelli che sono stati messi nelle didascalia, i capigruppo invece erano i questori, i vicepresidenti, che ringrazio, che sono stati puntuali ed efficaci e sono andati, come avviene alcune volte, a cercare di dividere prima che qualche cosa potesse zuffa nel succedere. Senso si sono strattonati, c'è un consigliere che calci e pugni, no, ho letto che ci sono stati calci, ma pugni, no. Si sono tirati un po' per la giacca, uno è caduto, anche un parlare, dottore, scusi, sì. Lei mi dica se ho 30 secondi, un minuto, lei mi ha fatto la domanda, io vorrei rispondere e concludo. Poi quando un consigliere è scivolato, proprio il consigliere Botta, il vicepresidente che gli era attaccato è caduto e sono caduti tutti. Le foto, quelli che sembrano i più facinorosi, che stiano quasi picchiando la gente, sono proprio i questori e il vicepresidente, che ringrazio ancora, perché dalla fotografia non si vede, perché così è uno scatto istantaneo, non è che questo volesse una giustificazione, è stato un po' ingigantito. Certo, è una pagina brutta, che a me dispiace, questo glielo dico chiaramente a lei e agli ascoltatori, e spero che questo non si ripeta più, questo non solo nel nostro consiglio, anche in futuro. È vero, presidente, che c'era anche una scolaresca ieri invitata? Sì, una scolaresca, noi abbiamo molte scolaresche che vengono, però quando è successo quel fatto, fortunatamente era già non hanno visto. Stavo uscendo. Meno male. No, perché sono d'accordo con lei. Meno male. Allora, i numeri, professor Perotti, 1 miliardo, lei è arrivato a questa cifra, mettendo insieme un po' tutte le cifre, consiglio per consiglio. È stato facile intanto? Cioè, c'è trasparenza nelle spese? Sì, devo dire che la pubblica amministrazione italiana negli ultimi anni è diventata una delle più trasparenti, nel senso che tutti gli enti devono mettere online i bilanci, non solo gli stipendi dei dirigenti, eccetera, cioè, non tutti lo fanno con chiarezza, alcuni non lo fanno, ma in generale insomma si riesce. Un miliardo è tanto o è poco? Lei dice costa tanto quanto la Camera dei Deputati, in particolare i 20 consigli regionali. E è chiaro che uno le posso fare anche oltre al dato una domanda, se vuole, politica: costa tanto quanto, ma vale come efficacia politica tanto quanto la Camera? La Camera costa molto più di quella britannica, quindi sicuramente la Camera costa troppo. Le regioni sono 20, un miliardo forse non è tantissimo, sono una media di 50 milioni a regione. Il problema secondo me sono due dati: uno, la remunerazione media lorda dei consiglieri, che è di oltre 200.000 euro. E questo insomma stride un po' nella situazione attuale, e poi l'altro problema sono appunto i contributi ai gruppi consigliari, che sono all'origine di tanti scandali. In realtà sono pochi, non sono tantissimi soldi, ma purtroppo l'immagine che danno al paese è rovinosa, e quindi lì bisogna arrivare a una soluzione. Sì, perché credo che siano i contributi 100 milioni di euro l'anno circa, che vengono dati a tutti, divisi ai 20 consigli regionali. Non sono appunto una grande cifra, ma è lì che si sono annidati poi gli sprechi e le vicende raccontate. Senta, 200 mila euro l'anno la retribuzione media è lorda, netta? È lorda. Lorda delle tasse pagate dal consigliere. E questo sì, insomma, è un po' tanto, presidente Cattaneo, presidente del consiglio. Ma guardi, questi dati sono dati in parte riconducibili senza ombra di dubbio fino al 2012. E il professore, diciamo, al netto di alcune piccole correzioni assolutamente non influenti, dice il vero. Però io voglio anche rivendicare una cosa molto molto importante. Le regioni hanno cambiato pagina. Noi dal 1 gennaio 2013 in tutti, compreso le regioni a statuto speciale, abbiamo uno stipendio tutti uguali, e quindi un consigliere regionale non può costare più di 11.600 euro, un presidente di consiglio o di giunta più di 13.700 di costo. Quindi le retribuzioni nette sono circa 6.000 euro consigliere e il massimo 8.000 euro un presidente di regione. Quindi non c'è più il costo medio, perché il costo è uguale per legge, siamo stati le regioni a chiederlo, col 174 hanno disposto questo, con una norma quasi invasiva che però ha chiesto le regioni, e tutte le regioni hanno fatto la legge regionale in questo senso. Per quanto attiene i gruppi, stessa cosa, 5.000 euro a consigliere l'anno di funzionamento, più un centesimo ogni abitante della regione, e quindi abbiamo tagliato complessivamente in Italia oltre 48 milioni di quei 100 milioni che si dicevano, che sono la metà, parlo per la mia regione, per esempio il Piemonte è passato da 1.500.000 a 500.000 euro. Ma perché non metterli a zero, presidente? Perché sai, è lì che si annidano proprio gli sprechi. Ci sto arrivando. Abbiamo anche, in un momento ovviamente difficile, poi confermato anche da queste inchieste, sia chiaro che poi vedremo quale sarà il loro esito, è del tutto evidente che abbiamo puntato molto sulla trasparenza. Abbiamo fatto l'anagrafe degli eletti. Uno, se va sul sito del Consiglio regionale, vede esattamente qual è il mio patrimonio, qual è il mio reddito, qual è la mia carriera politica di imprenditore, il mio titolo di studio, dove sono nato, dove abito e quant'altro. Non l'ha fatto nessuno tranne le regioni. In secondo luogo abbiamo istituito il Collegio dei Revisori dei Conti per i controlli. Siamo sottoposti ai controlli dal 1 gennaio 2013 ordinari della sezione controllo della Corte dei Conti. Cioè le regioni sono state al passo dei tempi e non possiamo più. Ma quindi vuol dire che queste inchieste sono diciamo eredità di comportamenti che non si possono più ripetere adesso? Io dico una cosa molto semplice. Evidentemente o hanno fatto l'esame del perfetto delinquente al candidato del consigliere regionale, o c'era qualche cosa che nel sistema e nelle leggi in tutte le regioni, sono 17 oltre 10 consiglieri, non funzionava. Sì. Le regioni sono state all'altezza e quantomeno hanno cambiato in termini di abbattimento della spesa, anche sui gruppi e sui costi della politica, e soprattutto hanno introdotto controlli, hanno introdotto trasparenza e addirittura un manuale della spesa, dove finalmente il capogruppo consigliere sa esattamente E questo sì, però, che cosa non può spendere? Però Presidente Cattaneo, messa così sembra che insomma è tutto perfetto, è tutto lindo, cioè, quello... non ho detto questo. Beh, nel senso che c'è, cioè, che le regioni si sono adeguate e quindi adesso diciamo non succederanno più le cose che sono successe in passato, stando a quello che lei mi dice, se è tutto talmente diciamo ridotto come spese, tutto controllato, non lo so. Però intanto i dati, lei si è riferito a quali dati, del 2012? Sì, trovo che fare una precisazione. Sì. È vero che con il governo Monti è stato introdotto un tetto alla retribuzione lorda totale, però quello che è successo è che molte regioni hanno adottato il seguente trucco: hanno diminuito l'indennità, che è la parte della retribuzione totale che è tassabile, e hanno aumentato le varie diarie, rimborsi a forfè, che sono di fatto un reddito non tassabile, perché non c'è bisogno di portare nessuna documentazione, quindi sono di fatto un reddito non tassabile. Ecco. Per cui in alcune regioni il reddito netto percepito dal consigliere è addirittura aumentato. Cioè quali, dopo, per esempio, quali regioni? Io so della Basilicata, Basilicata. Ci sono altre. Adesso sto facendo i controlli su tutte, ma so, non è facile, ci vuole un po' di tempo, però la Basilicata so che è successo. La Basilicata è successa, insomma, alla fine adesso non è che vorrei dire fatta la legge, trovato l'inganno, però questo è esattamente, la fatta la legge, trovato l'inganno. Il reddito netto percepito dal consigliere in alcune regioni è aumentato, in quasi tutte le regioni il reddito netto è cambiato, si è diminuito di pochissimo. È vero che sono diminuite le pensioni passando alla contributiva, però questo si vedrà tantissimo. Beh sì, poi le pensioni sono diminuite di tutti gli italiani, quindi comunque dopo la pubblicità ripartiremo. Professor Roberto Perotti e Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Ci raggiungerà anche il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, vale a dire Nazario Pagano, e con la domanda che pongo anche agli ascoltatori, che sempre più opinionisti pongono, lo ha fatto anche per esempio il costituzionalista Michele Ainis in prima pagina del Corriere domenica: ma stante così la situazione, non è che ci siamo sbagliati a fare tutta questa battaglia per la chiusura delle province, e in realtà i veri sprechi si annidano nelle regioni e sarebbero le regioni da chiudere? Proposta forte, certo, però ripartiamo da qui tra un attimo. 24 mattina. Allora, siamo qui a parlare di regioni. C'è il professor Roberto Perotti, c'è il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo, ci ha raggiunto anche il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Nazario Pagano, che saluto. Buongiorno presidente Pagano, eccoci qua. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, so che Cattaneo voleva replicare a Perotti, che ha detto Perotti, in pratica è vero, le regioni si sono uniformate come stipendi, ma hanno molte aumentate le diarie e rimborsi a forfè, tipo la Basilicata. Insomma, fatta la legge, trovato l'inganno, caro Cattaneo. Adesso lo so, lei parlerà del Piemonte. No, ma io do anche il quadro generale. Lo ripeto, innanzitutto non voglio assolutamente avere nessun scontro con il professor Perotti, che apprezzo. Ci si confronta. Semplicemente una cosa, e cerco di spiegarla in due minuti scarsi, un minuto e mezzo. Allora, tutti i consigli regionali d'Italia hanno un costo massimo per il consigliere in 11.600 euro, omnicomprensivo, costo. Quindi non stipendio, il costo. Il presidente di giunta e consiglio può arrivare a un costo di 13.700 euro. Sì. Okay? Sono stati aboliti tutti i gettoni di presenza, il rimborso chilometrico forfettario, il rimborso chilometrico per l'aula delle commissioni, i viaggi aerei all'estero e nazionale. Ma questo in Piemonte? In Piemonte o vale per tutti? In tutta Italia. E com'è qua allora il mistero? Perché il costo, scusi, il costo deve essere omnicomprensivo. Perché sennò la Corte dei Conti, quando controlla i bilanci, e il ragioniere generale dello Stato, se vede quella voce che moltiplica il numero di consiglieri per quell'importo, che fuori va a vedere perché. E se c'è qualcosa che non funziona, ti tira le orecchie. Quindi tutti si sono adeguati. Qual è il discorso del netto e del lordo? È del tutto ovvio che c'è una parte netta e una parte di rimborso per servizio sul territorio e il mandato, una cosa del genere. Sì. Ma dentro lì oggi sono tutte ricomprese tutte quelle funzioni che prima erano invece riconosciute al consigliere. Faccio un esempio: un consigliere di Torino che abita 500 metri dal consiglio prende lo stesso identico stipendio netto di circa 6.000 e qualche di quello che abita a 100 km, quello che abita a Domodossola e che fa 400 chilometri al giorno con la sua macchina e a proprie spese oggi. Mm. Quindi diciamo che il costo, che quello che è rimasto. Ma su questo io mi fido, insomma, cioè qua sono cifre contro cifre, non so, io per Otti non ho, come dire, lei dice il costo è quello, il costo complessivo che può arrivare massimo a 13.700 per il presidente è omnicomprensivo, professor Perotti, non so. 30 secondi. Sì. Quello è vero che c'è un massimo, ma è anche vero che prima c'era indennità che è tassabile e rimborso spese, chiamiamola diaria, più alcuni rimborsi spese non tassabili e a forfait. Quello che è successo adesso è che è diminuita la indennità che è tassabile e è aumentata la diaria, chiamata anche rimborso spese per l'esercizio del mandato, che è sempre a forfait, quindi è di fatto un reddito non tassabile. Quindi di fatto in alcune regioni, cioè Basilicata e Veneto e probabilmente altre, quello che si porta a casa il consigliere regionale è aumentato. Insomma, è su questo posizioni contrastanti. Io vorrei chiedere a Nazario Pagano, la faccio a lei Pagano la domanda. Anche la regione Abruzzo di recente è stata la giunta colpita con un arresto addirittura per un assessore, ci saranno i processi, staremo a vedere, però tanto non esiste regione che sia immune da inchieste. Lo chiedo a lei, vanno abolite queste regioni? Guardi che sono sempre più le persone anche autorevoli che lo chiedono, come il costituzionalista Ainis, ma anche altri di recente. Vanno abolite, presidente Pagano? Io non lo penso proprio. Ho creduto per anni in un nuovo federalismo, in un nuovo regionalismo. Ho avuto, come sa bene il mio collega Cattaneo, ho avuto la bella esperienza e responsabilità di rappresentare addirittura tutte le assemblee legislative d'Europa, perché c'è un'associazione che ne riunisce ben 74, sostanzialmente degli 8 paesi dell'Europa occidentale, e ovunque si pensa che nel momento in cui, attraverso l'applicazione del cosiddetto principio di sussidiarietà, che è un principio che è stato stabilito nel Trattato di Lisbona di 4 anni fa, quindi non l'ho certo stabilito io, nel momento in cui il momento della decisione si avvicina di più al cittadino, il controllo del cittadino è maggiore, naturalmente anche la necessità da parte del pubblico amministratore di ridurre i costi della pubblica amministrazione. Ma mi scusi, però Pagano, che vicinanza al cittadino c'è? Normalmente ma che vicinanza al cittadino c'è? Sì, ma d'accordo, ma il cittadino quello che vede è solo di vicinanza, di leggere sui giornali scandali o presunti scandali un po' in tutte le regioni. Gli scandali sono comunque da legare alle singole responsabilità, e queste purtroppo lei mi insegna, non è che riguardano soltanto il pubblico rappresentante. È chiaro che il politico dovrebbe essere un simbolo per i cittadini e pertanto dovrebbe essere migliore degli altri. Purtroppo invece ciò che accade è come gli altri. Il pubblico rappresentante esprime esattamente la nostra società, perché poi alla fine lì qualcuno ce l'ha mandato, no? Sono stati i cittadini, in modo particolare per quanto riguarda i rappresentanti regionali, perché cioè, come è colpa loro, insomma, dei parlamentari che sono dei nominati, sì, i consiglieri regionali. Però presidente Pagano, non mi dica che è colpa dei cittadini, ma non mi dica che è colpa dei cittadini che si devono scegliere al meglio. No, dico semplicemente che sono esattamente lo specchio di questa società. È chiaro che se, siccome io sono anche avvocato nella mia vita, le dico che la responsabilità penale è individuale, personale. E questo è certo. Se si delinque, ma voglio dire, non può essere la colpa di uno, non può essere trasmessa. Ma no, ma d'accordo, ma non è questione di colpa da estendere alla regione, ma il terrore, il mio timore, il timore di molti è che il sistema sia stato creato, un sistema che è talmente cadere in tentazione, che allora forse definitivo su questo. Allora, in linea di principio, quello che io affermavo poco fa è perfetto, cioè nel momento in cui il momento della decisione si allontana dal cittadino ci sono ovviamente minori controlli e maggiori difficoltà da parte del cittadino di attribuire le responsabilità di eventuale malgoverno a qualcuno. Non so se è chiaro quello che voglio esprimere, no? Ecco, allora ciò detto, in linea di principio ciò è importante e fondamentale per un buon funzionamento, per un cosiddetto buon governo. Siccome purtroppo in Italia effettivamente c'è stata una enfatizzazione delle spese, un raddoppio delle competenze, mi riferisco non solo alle regioni, perché non si può mettere dinanzi al mirino esclusivamente le regioni o le province, è il sistema che deve funzionare. Però con questo principio di avvicinare le istituzioni, allora le province sono ancora più vicine delle regioni, i comuni sono ancora più vicini delle province e le circoscrizioni sono ancora più vicine dei comuni, delle province, delle regioni, così salviamo tutto. Però fatemi sentire un'ascoltatrice, poi vado in traffico, poi anche l'ultima parte di 24 mattino. Eleonora da Bergamo, Eleonora buongiorno. Sì, buongiorno. Io guarda, ti seguo tutte le mattine. Sì. E tutte le mattine arrivo poi in ufficio con un sapore amaro in bocca. No, dai, Eleonora, non... Perché, guarda, ma noi stiamo parlando di gente che si fa le degustazioni di tartufo con stipendi che io, nonostante la mia laurea conseguita in giovanissima età e con i massimi voti, parlo tre lingue, certi stipendi non li vedrò neanche tra 200 anni, e questa gente si fa per esempio le degustazioni di tartufo, mettere sigarette nelle... Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io apprezzo molto le trasmissioni di analisi come la vostra, però ritengo che sia giunto il momento di proporre anche un'alternativa, un paradigma alternativo a tutto questo. Perché possiamo raccontare, c'è chi propone di cancellare le regioni, per esempio, è un po' brutale. Ecco, io sono pienamente d'accordo, perché questa gente, allora, il nostro è un paese che è arrivato a dei livelli ridicoli, mancanza di etica totale, anche se dirlo sembra quasi un cliché, ma è la realtà. È il momento di prendere delle decisioni radicali. Lei dice basta, insomma, solo denunciare le cose e prendere le decisioni, ma poi le decisioni, se anche fosse cancellare le regioni, non è che possiamo farlo io, lei, Eleonora, il professor Perotti o magari anche Cattaneo e Pagano, ma ci vuole insomma che la politica dall'alto le prenda queste decisioni. Andiamo a sentire il traffico e rientriamo. Eccoci qua, l'ultima parte di 24 mattino, sentire anche Marco da Novara, buongiorno Marco. Pronto, buongiorno, sì. Sono Marco da Novara. Sì, certo. Allora, noi a Novara siamo molto molto arrabbiati con la presidente Cota e tutto il suo gruppo, tenendo presente una cosa, che il presidente Cota è, a nostro giudizio, a mio giudizio, un presidente delegittimato. Il dottor Cattaneo non ha spiegato che sono investiti da sentenze per liste con firme truccate che appoggiavano il presidente Cota alle elezioni, di gente che è stata condannata, uno. Due, rimborsi di spese, quelli che hanno loro, gente che ha addebitato rimborsi chilometrici per andare a farsi la settimana bianca. Io penso che queste persone abbiano un nome solo, indipendentemente di chi sia di destra, di sinistra. Quello che diceva anche il presidente della, non mi ricordo più, Pagano, ma questo è proprio una lobby di gente, non mi piace dire il nome, no, ma non lo dica, anche perché loro, poi si assume le responsabilità, cioè lei mette tutto nel mucchio, insomma, sono tutti, quando dice loro, a chi si riferisce? Beh, Cota lo abbiamo capito, tutti. Ho il dubbio, ho il sentore, ma la gente come me che fa 150 chilometri al giorno per andare a lavorare percepisce 1.400 euro di stipendi come quello che percepisce il dottor Cattaneo o il resto, ma sono stipendi enormi per quello che fanno. Lui diceva che c'è gente che fa 400 chilometri al giorno per andare in consiglio regionale, queste cose qua, ma percepisce 6.000 euro al mese, ma stiamo scherzando, ma neanche la metà devono prendere per quello che stanno facendo. Allora, vediamo. La regione Piemonte era una regione ricca, Novara era una città ricca, ma lo sa che quando Cota è diventato presidente, il sindaco di Novara ha messo al posto della Lega, a Giordano, ha messo al posto suo la vicepresidente, che poveretta, io la conosco, è una persona non vedente per più di un anno, fino alle elezioni, lui è andato in consiglio regionale, in regione, quello che è, Giordano ha dovuto dimettersi per una burrasca, chiamiamola così. Allora io ho idea che tutta questa gente, siamo stufi. Vabbè, il ma c'ha la rogna. Il più pulito c'ha la rogna, ecco, questo è un po' il sunto. Cattaneo, insomma, replichi un po' alla questione, no, anche io stipendi. Io capisco la del signor Marco, però innanzitutto voglio subito dire che mi dispiace della battuta e della caduta di stile sulla... sull'assessore che ha sostituito il sindaco, sì, dopo le sue dimissioni, non vedente, ma una persona molto, ma no, ma infatti non sono addentro, no, a questa cosa, non lo so. Siccome no, sono uno abbastanza sveglio, l'ha detto, sì, con un tono che non mi è piaciuto. Vabbè. Veniamo alla questione dello stipendio. Lo stipendio. No, le liste truccate, sì, è vero, c'è stata una condanna del consigliere Giovine, le liste erano sulla scheda, sono state votate, i voti sono stati dati a cota, come anche la lista dei pensionati per Bresso, che sulla questione dei film c'è stato anche un patteggiamento da quella strada lì, hanno votato per la presidente Bresso. Comunque c'è una sentenza al TAR, vedremo. Quali saranno le risultate. Però mi sembra che l'ascoltatore fosse più arrabbiato sugli stipendi, cioè a dire, no, per quello che fate, allora, 6.000 euro sono anche... Siamo di antipolitica oggi, che se noi dovessimo dire che per andare in consiglio regionale diamo noi 1.000 euro per poter entrare è sempre troppo. Parliamoci chiaro. Il consigliere regionale che oggi guadagna meno della metà del deputato, che lavora spesso, siccome eletto anche con un sistema di preferenze, quindi deve, non può permettersi, come il deputato che è nominato col porcellum, di non avere, sì, come dire, un'azione sul territorio. Lavora 5, 6 o addirittura 7 giorni alla settimana. Oggi H26, certo, perché cosa vuole? Le persone che si rivolgono, come è giusto che sia, perché il rapporto con l'elettore è questo, cioè avere un contatto con il territorio. Se uno è una persona onesta, soprattutto alla luce di queste come dire, riduzioni, no, capisco che in termini assoluti 6.000 euro è uno stipendio importante, chi lo può negare, però diciamo le sue spese ce l'ha, perché quel consigliere che parte da Domodossola e va a 18-20 volte al mese ha solo per spostarsi 2.500 euro di spese, perché ne spende solo 5-600 di autostrada. Ma, insomma, però così mi dà questo spaccato, come dire, è sempre così la difesa, cioè, è vero, guadagnano la metà del parlamentare, ma guadagnano 6.000 euro, che è una cifra che, non so, professor Perotti, lei le cifre le ha, il 90% degli italiani non si sognerà mai di vedere, però... Sì, intanto non è vero che guadagnano la metà dei parlamentari, perché guadagnano quasi quanti parlamentari il netto è ben più di 6.000 euro. Però secondo me qui non ne verremo mai a capo. Secondo me l'unica cosa che bisogna fare sono tre cose. Una è eliminare i contributi ai gruppi consigliari. Ci sono già i rimborsi spese per elettorale, che sono di fatto i contributi ai partiti, adesso sono stati diminuiti. E ci sono tante facilitazioni, i partiti si possono raccogliere i fondi come con i loro iscritti, come fanno quasi tutti gli altri paesi del mondo. Quindi per quella non finisce, finché ci sono i contributi ai gruppi consigliari non se ne uscirà mai. Perché poi è lì che si annidano le inchieste. C'è lì, qualcuno che organizza un convegno che non serve a niente per fare un favore alla cognata, eccetera, eccetera. L'altra cosa che bisogna fare è ridurre drasticamente il numero dei consiglieri. Ci sono la Sardegna ha 1.600.000 abitanti e adesso ha 80 consiglieri, dividerà 60, ma 60 sono ancora troppi. Bisogna dimezzare il numero dei consiglieri, in questo momento sono 1.150, bisogna portarli in tutta Italia, bisogna portarli al massimo 500, anche per responsabilizzare, come diceva il Presidente della Regione Abruzzo, per responsabilizzare i consiglieri, perché in un consiglio regionale di 80 persone il consigliere può non fare niente, come sappiamo di tanti esempi che sono stati. E poi bisogna ridurre un po' lo stipendio. Ridurre lo stipendio. Quindi, è ben più di 6.000 euro. Quindi ridurre lo stipendio, ma soprattutto azzerare i contributi ai gruppi e ridurre i consiglieri in generale. Io non lo so, ho un minuto, Pagano, su queste tre proposte, mi dica solo su queste tre proposte quale le sembra più fattibile. Le faccio intanto due tele flash, dando poi un giudizio complessivo su come dire, su questa bella chiacchierata. Allora, il primo flash è quello che il professor Perotti, che leggo è un economista italiano, docente ordinario di economia politica presso l'Università Bocconi di Milano, dovrebbe sapere che però queste sue argomentazioni potevano avere un valore fino a un anno fa. Col governo Monti ha approvato un decreto legge che l'abbiamo detto, individuato. Ecco, però voglio abbiamo detto che trovata la legge, trovato l'inganno. Allora, per i gruppi sostanzialmente ormai siamo ridotti proprio quasi a nulla. Quelle indicazioni sui convegni, sui passi, su tutti questi scandali che stanno erano del diciamo, passato, apparendo su tutti i giornali d'Italia, sono relativi a fatti precedenti a questa modifica. Il numero dei consiglieri regionali, altra questione sollevata, è stata già ridotta in quasi tutte le regioni, salvo, non si può fare l'esempio, le regioni a statuto speciale, sì, perché loro, quelle cinque regioni lì, hanno, e anche su questo farei eventualmente un appunto, cioè non è più momento, subito dopo la guerra, la seconda guerra mondiale aveva un senso. Adesso non più. Però no, Pagano, si fermi qui, perché altrimenti sforo. Prometto che vi richiamo, torneremo su questo tema, insomma, da quanto ho capito dal futuro andrà meglio. Speriamo. Mi devo fermare. A domani.